Sì, l'iniziativa del codice ristretto vuole ricordare a tutti, alla politica, al territorio, ai giudici, ai garanti, ai volontari, all'amministrazione penitenziaria, che già nel qui ed ora si possono applicare delle normative che prevedono dei benefici per i detenuti. Per fare questo, e quindi potremmo deflazionare già da subito il numero delle presenze in carcere, per fare questo c'è bisogno dell'impegno di tutti e dei territori e delle comunità che accolgano le persone che sono vicino al fine pena, comunque rientrano nei canoni dei benefici penitenziari. In Emilia Romagna i detenuti sono 3.700, 800 in eccesso rispetto alla capienza. Sì, è un numero, diciamo, questo sovraffollamento che non riguarda tutti i tipi di detenuti è la conseguenza di diversi fattori come l'approvazione di leggi che prevede il passaggio dal carcere o l'assenza di politiche che ne prevedono l'inserimento all'esterno. Quindi le carceri diventano come dei contenitori che si riempiono sempre di più e dove uno degli effetti della disperazione è il suicidio. Lei prima ha parlato anche della povertà come problema. La povertà è la matrice su cui si basa anche poi l'entrata, molto spesso l'accesso in carcere, molto spesso sono reati contro il patrimonio, per cui sono persone che compiono reati, diciamo, forse anche banalmente potrei dire per sbaccare il lunario arrivano a fare questo. E bisognerebbe capire come mai le politiche sociali di welfare nei territori non riescono a essere politiche anche di prevenzione del reato, quindi c'è bisogno di intercettarle queste persone qui prima che succede il peggio e quindi si arrivi in carcere. Ci raccontava prima di una disparità dei detenuti anche nell'ottenimento della residenza. C'è un comune come Piacenza che sembra negare, c'è un comune come Bologna dove invece questa è una pratica. Sì, è una, diciamo, delle cose che ho rilevato con questo mio ruolo del garante regionale, cioè non esistono pari opportunità per i detenuti che si trovano in istituti penitenziari diversi all'interno dello stesso distretto dell'Emilia Romagna. Ad esempio sul comportamento dei territori, sono territori come ho detto Piacenza che è refrattaria nel riconoscere la residenza, altri come Bologna invece che hanno, o anche Modena posso dire che hanno dei protocolli molto più formali tra amministrazione penitenziaria e ente pubblico comune, per cui la residenza è ottenibile chiaramente all'interno della cornice di senso diciamo del diritto. Il fatto di non riconoscere la residenza per chi ne ha diritto vuol dire porre la persona in un limbo che è anche di disperazione che non lo porta da nessuna parte, rimane detenuto ai margini della società. Mentre a Modena c'è un caso di donne che non possono uscire per le attività. Sulle donne, sulla questione di Modena, quello che è emerso è che dal 2010 non esistono posti nella sezione di donne per semilibere, articolo 21, quindi le donne non accedono a questo tipo di misure. È un problema che sto già affrontando con la Ministra Penitenziaria, la quale si è impegnata a diciamo, colmare questo problema, a risolverlo. Poi il dubbio mio è stato come mai in tanti anni non se ne è accorto nessuno prima.